altri, altri dice ne fa. E l'unica cosa che hanno almeno è l'unica cosa in eredità. E qualche volta gli dice ti amo, ma non può essere tutto qua. Qua non c'è niente per nessuno. Andiamo via, andiamo dai, andiamo là. Foto di sua madre, un giorno l'altro la guarderà, e così non vuole diventare di cucitura, mai non sarà. Lui la foto di suo padre là dentro, impressa a fuoco nell'anima, impressa dal colpaccio in succi. Andiamo via, andiamo dai, andiamo va, salviamoci là. Che bella brucia è quella lì, prendiamo la luna, salviamoci là. Tu tieni botta e dimmi di sì, che quella.